Beh, in questo caso cosa siamo? Perché siamo un'associazione. Io ho fondato un'associazione 7 anni fa che parla di territorio e nuove tecnologie in Trentino. E abbiamo avuto la fortuna di avere un castello bellissimo come contenitore di queste opere e abbiamo iniziato la nostra ricerca praticamente da zero, iniziando a intervistare anziani, fino ad arrivare negli ultimi 2 anni, cioè 5 anni dopo, a proporre dei laboratori per bambini che parlano di territorio, web e memoria. E quindi abbiamo fatto un percorso molto lungo, molto faticoso, tra memoria, web e territorio. Noi abbiamo sviluppato subito un'estetica dedicata all'audio perché secondo noi la parte visuale in un certo senso è morta, nel senso è morta perché uccide la fantasia. Cioè, la parte audio invece permette di rielaborare il contenuto multimediale in maniera personale. E quindi permette di avere tante visioni, che sono quelle le cose più importanti che alla fine credo che siano uno degli obiettivi più importanti per chi produce o per chi fa una pratica artistica, insomma. Ecco. Ascoltare un suono in fondo è come un'opera astratta senza titolo. Sei tu che guardi l'opera e la traduci, insomma. Lo suono è lo stesso. Ascolti e ti viene in mente per concezioni culturali o per altre cose, ti viene in mente comunque una cosa molto diversa da un'altra persona, magari, no? Quindi questo è molto interessante perché stimola la fantasia. Noi non ci siamo mai definiti né artisti né che facciamo pratiche artistiche. La nostra idea era prima di tutto etica e sociale, di riuscire a fare un collegamento tra tradizione e innovazione, di trovare il famoso anello che possa tracciare una linea continua, insomma, dare un senso alla memoria, alla storia. Dobbiamo semplicemente avere umanità nei rapporti, cioè il problema principale secondo noi è che c'è un distacco tra l'arte e la maggior parte delle persone, che magari c'era anche nel Rinascimento, cioè mi viene in mente a fine 400 i grandi innovatori di Firenze che comunque sono un'elite, no? E comunque adesso fanno parte della storia, no? Però all'epoca li conoscevano soltanto chi frequentava il palazzo, no? La nostra idea invece è di cercare una pratica artistica che possa coniugare tutte le fette della società, cioè di riuscire a creare veramente un movimento che sia sociale. Allora io mi chiamo Davide Ondertoller e la mia associazione si chiama Liberamente e dal 2005 produciamo il festival Porto Beseno in Vallagarina.